Giovanni Mario siede sul divano, sito d'incontro gli tende la mano. La madre gli urla, ma ti sposerai, il vizio del poker ora online. Laura buttata chissà dove, futuro perduto chissà come. Cosa farò martedì? Lo scoprirò mercoledì. Mario vuole essere libero. Ogni corruzione. Mario vuole essere libero. Ogni distrazione. Mario vuole essere libero. Ogni altro errore. Di essere un fallito. Libero. Mario siamo noi. Mario scorre la mano su un album di foto. Sono passati 30 anni da quando era bimbo. Aveva le orecchie grosse come Dumbo. Ma resta a terra fisso come piombo. Crescendo mica ha imparato a volare. Vive bene a livello del mare. Sogna la neve il 31 d'agosto, di fare il bagno in mezzo all'inchiostro. Mario vuole essere libero. Ogni corruzione. Mario vuole essere libero. Ogni distrazione. Mario vuole essere libero. Ogni altro errore. Di essere un fallito. Siamo noi. Cerca la felicità fino a sera, sogna la libertà, quella vera. Cerca la felicità.